Benvenute e benvenuti. Oggi ci addentriamo in alcuni estratti dal libro Gli effetti dell'intelligenza artificiale nel quotidiano di Roberto Magnani. L'idea mi sembra è quella di, ecco, rendere l'IA un po' meno ostica, no? Spiegare cos'è, come ci tocca da vicino. Sì, un tema complesso che prova a rendere accessibile. Esatto. Proviamo allora a vedere i punti salienti. Cerchiamo di capire come l'autore inquadra questo impatto dell'IA, che va dalle cose di casa, tipo la domotica, fino a questioni etiche belle grosse. Mm-hmm. L'autore, guarda, inizia subito col dire: attenzione, IA non è solo ChatGPT. È importante dirlo. Ah, meno male. Perché sennò si fa confusione. Appunto. Lui risale addirittura al 1956, tira fuori nomi come Turing, Minsky, i pionieri, insomma. Nomi storici, certo. E fa una distinzione chiave, mi pare, tra IA debole, quella che abbiamo adesso, per compiti specifici. Quella che usiamo tutti i giorni, magari senza saperlo. Proprio quella. E l'IA forte, o AGI, l'intelligenza artificiale generale. Quella è ancora un po' un'utopia, no? Roba da film, quasi. Sì, decisamente. Ma è interessante come sottolinei quanto l'IA debole sia già, pervasiva, spesso invisibile. Giusto. Fa l'esempio della lavatrice smart, no? Quella con la sigla AI. Che non è solo la tecnologia in sé. C'è anche il marketing, immagino. Certo. E soprattutto la raccolta dati. Spesso non ne siamo consapevoli, ma questi oggetti connessi raccolgono informazioni. Eh già, come gli assistenti vocali, Siri, Alexa. Esatto. Quelli funzionano col NLP, l'elaborazione del linguaggio naturale, e il machine learning. Ed esistevano ben prima del boom di ChatGPT, eh? Vero, vero. Poi il libro si addentra un po' nel tecnico, ma cerca di non spaventare. Spiega il machine learning, le reti neurali. Si usa delle metafore, mi pare. Quella dell'ufficio postale. Ah, sì. Per far capire gli strati. Input, quelli nascosti, output, e i pesi, che sarebbero, diciamo, l'importanza che l'algoritmo dà a certi dati per prendere una decisione. E distingue anche tra IA non generativa, quella che analizza, classifica. Ok, tipo riconoscere una foto. Bravo. E l'IA generativa, invece, che crea. Tipo ChatGPT, che scrive testi, o Dall-E che fa immagini. Un salto reso possibile dalla tecnica Transformer del 2017. Ecco, quello è stato un bel passo avanti. Decisamente. Ma attenzione, l'autore dedica parecchio spazio anche ai rischi. Non è tutto rose e fiori. Immagino di no, si parla di privacy, sicurezza. Tantissimo. Cita casi di data breach, fughe di dati. Amazon, eBay, Under Armour. Succede. E introduce il concetto di capitalismo della sorveglianza. Ripreso dalla Zuboff, se non sbaglio. Esattamente. L'idea che i nostri dati siano la vera merce. E poi un altro grosso problema. I bias. I pregiudizi. Cioè, i pregiudizi umani che finiscono dentro gli algoritmi. Proprio così. E questo è pericoloso. Fa esempi nel reclutamento o il famoso sistema Compass nella giustizia americana. Mamma mia, sistemi che possono finire per discriminare. Possono replicare i nostri pregiudizi o addirittura amplificarli. E poi c'è la manipolazione sui social, le filter bubble. Le bolle in cui ci chiudiamo vedendo solo certe cose. Esatto. O il nudge, la spiltarella gentile per influenzare le scelte. E non dimentichiamo la disinformazione, fake news e adesso i deepfake. Contenuti falsi, video, audio che sembrano verissimi. Bel problema. Un problema enorme. E il lavoro, altro tema che non si può ignorare. L'autore ne parla. Sì, certo. Fa una panoramica su come l'IA sta cambiando un sacco di professioni. I creativi, i finanzieri, gli avvocati, in fabbrica, nella progettazione. Quindi c'è automazione di compiti, ma non solo. No, non solo. Emerge forte anche il bisogno di nuove competenze, le famose soft skills. Pensiero critico, creatività, saper collaborare. Adattabilità, direi. Fondamentale. E tutto questo, i rischi, i cambiamenti nel lavoro, porta inevitabilmente a chiedersi quali regole, quale etica. La domanda da $1 milioni. L'autore cita l'AI Act europeo, questo tentativo di mettere dei paletti, classificando l'IA per livelli di rischio. Per proteggere un po' i cittadini, l'idea è quella? Sì, ma va anche oltre, tocca corde più profonde, etiche. Cita perfino documenti del Vaticano, come Antiquet Nova o la Laudato Si. Interessante. E cosa dicono? Invitano a riflettere sul rapporto uomo-macchina, sulla dignità umana, e introducono il concetto di ecologia integrale, cioè legare la tecnologia anche alla sostenibilità. Ambientale, tipo il consumo energetico dell'IA? Eh sì, quello è un aspetto. Ma anche sociale. Come questa tecnologia impatta sulla società nel suo complesso. Ok, quindi, tirando le fila, cosa ci portiamo a casa da questi estratti? Mi sembra una panoramica bella ampia, no? Direi di sì. Si parte dalla definizione, un po' di storia, le applicazioni quotidiane, casa, social, acquisti online, trasporti, salute. Si accenna a come funziona, le reti neurali, l'IA generativa. Si analizza l'impatto sul lavoro, i rischi privacy, bias, fake news e poi le risposte, quelle normative ed etiche, che stanno, beh, emergendo. Un quadro completo, anche se magari non nuovissimo in ogni sua parte. L'autore alla fine dice una cosa, che l'IA è una possibilità, sta a noi decidere come usarla. Il che però lascia aperta una domanda, secondo me, ed è questa. Visto quanto è complessa e, come dicevamo, pervasiva, quali strumenti abbiamo davvero, noi persone comuni? E quanta consapevolezza serve per poter davvero partecipare a questa decisione? O siamo destinati solo a subirla, ad accettarla passivamente? Bella domanda. Forse un po' provocatoria, ma ci sta tutta. Lascia su cui riflettere.